4 mattino. Io giro col camion, vivo in Veneto e faccio anche il Friuli Venezia Giulia col camion. Guardate che il mezzo paese è ancora fermo e lavoro poco. A noi ci interessa il lavoro, non la politica da Roma. Alla metà loro hanno un piano B, entrati in altre aziende internazionali in Inghilterra e in altri stati, ha portato alla rovina l'indotto dell'acciaio, perché ArcelorMittal vuole eliminare tutti i competitor in quanto è un potenza internazionale. Entrando in Ilva cercherà di smantellare tutto l'impianto e di lasciare le cose come stanno. Ma meno male che torniamo a parlare di Ilva e di Alitalia, siamo decisamente usciti dall'emergenza sanitaria. Eh beh, mi pare che non ci sia dubbio. Se ne vuole ulteriore testimonianza, a Roma, per esempio, si torna a parlare di cinghiali. A pagina 35 in cronaca di Roma, al Messaggero, la carica del comune, siamo pronti a sterilizzarli. Quindi sì. Forse. Ne stiamo uscendo. Non andiamo così rapidi, però. Sulla vicenda ArcelorMittal, che le devo dire? È una voce che gira da tempo, se ne continua a parlare. La realtà è che ArcelorMittal è vincolata da un contratto e quindi questo contratto lo deve rispettare. Quindi, insomma, anche se la volontà è quella, ripeto, condizioni contrattuali sono quelle. E sono d'accordo con l'ascoltatore che fa il camionista e che dice: io giro tutto il giorno, faccio il Veneto, il Friuli, guardate che metà del paese è ancora fermo, della politica di Roma non ne possiamo più. Ha ragione in linea di massima. È vero dall'altra parte che poi dalla politica di Roma discendono tutta una serie di decisioni, specie in fasi come queste, che hanno a che fare con tutte le nostre vite. Poi bisogna vedere quale politica di Roma. Ripeto, insomma, quella che vediamo in queste ore è una politica di sospetti, presunti complotti o veri complotti, idee, ipotesi di cambi di governo, maggioranze che girano, si alternano, messaggi trasversali tra parlamentari, non un bel vedere tutto sommato. Però di certo la tensione sale. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci. Il 349-238-6666 che vale anche per gli SMS e i messaggi su WhatsApp. Sono le 7:22 minuti, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia. Iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani. Torneremo su questa triade, per così dire, tra poco con Paolo Mieli. Il Messaggero: paralisi sulle crisi industriali, è il titolo di apertura. La Repubblica: la beffa della sanatoria, solo 9.500 ai 220.000 irregolari ne hanno fatto richiesta, le testimonianze di braccianti e badanti. E poi il Sole 24 Ore: reddito di emergenza, un altro flop, da oggi il via i pagamenti dei primi 67.000 alle famiglie in difficoltà. Ma sono pervenute finora un terzo delle domande di quelle stimate dal governo. Gli altri titoli, il Corriere della Sera: Europa, riaprono i confini, Grecia e Austria, sia gli italiani, piano per il rilancio, tensione nel governo. Libero: il governo ha tutto tranne i soldi, c'è di taglio alto e poi un'apertura che farà molto discutere. Arrestati 59 napoletani, la retata anticamorra in questa battaglia che sta combattendo Libero contro quello che definisce un sentimento antilombardo. Beh, oggi vira e se la prende con l'operazione anticamorra di ieri. La Stampa intervista Anthony Fauci, è il virologo consigliere del presidente Trump, che avverte l'Europa: la pandemia ritornerà, ma parla anche di politica, di quella politica di cui dicevamo poco fa, con un titolo dedicato al presidente del Consiglio Conte. Assedio a Conte tra PD e 5 Stelle, spunta l'ipotesi di Guerini premier. Il Fatto Quotidiano, 10 giorni di Stati Generali, Conte chiama tutti, venerdì le opposizioni, sabato Fondo Monetario, von der Leyen, Sassoli, forse Lagarde, poi parti sociali, associazioni, Colao, premi Nobel ed esperti, fino al 21. Avvenire, e ci arriviamo tra un attimo, Ultima campanella, materne, primarie e licei, ecco le prime quattro paritarie costrette a chiudere, già in difficoltà, senza aiuti, a rischio il 30% delle scuole pubbliche non statali. E infine il Quotidiano Nazionale, controordine, asintomatici, innocui, sulle parole di ieri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulle quali torneremo più avanti, come vi dicevo, con Maria Latella avremo ospite il professor Crisanti. Iniziamo come sempre però, care ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualcosa di un po' diverso, e oggi vi porto sui temi della giustizia e sui temi della scuola. La giustizia innanzitutto. La vicenda dei boss scarcerati, beh, ne abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi, abbiamo visto quanto il ministro Bonafede sia finito, insomma, nel fuoco di polemiche per tutte queste scarcerazioni che ci sono state, anche di boss al 41 bis per ragioni di salute dovute al Covid. È una vicenda complessa che intreccia circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che poi ha portato al cambio del vertice del DAP, e poi il ministro a cercare di correggere il tutto con un decreto. Ci racconta oggi il giornale a pagina 8 con Massimo Malpica è che questo decreto non è piaciuto evidentemente ai giudici. Giudici che hanno deciso sostanzialmente di, se non di ribaltarlo, di opporvisi. Il titolo è «L'ennesimo disastro del decreto Bonafede, il boss non torna in cella». E attenzione che non è un boss qualsiasi. Ieri i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Sassari hanno negato il ritorno in carcere del boss dei casalesi Pasquale Zagaria, detto Bin Laden, fratello del capoclan Michele. Secondo i magistrati, insomma, Zagaria, che era al 41 bis, può restare ai domiciliari nella sua casa a Pontevico, in provincia di Brescia, curandosi in un vicino ospedale, perché il decreto di Bonafede potrebbe rappresentare un'illegittima interferenza nel potere giudiziario del potere esecutivo. Quindi i giudici di sorveglianza sardi cosa fanno? Ovviamente sollevano una questione di legittimità costituzionale. Hanno accolto l'istanza del legale di Zagaria e nella loro decisione ricordano come il tribunale, dopo la circolare del DAP, aveva compiuto un bilanciamento tra ragioni di sicurezza e diritti del detenuto a curarsi senza rischiare il contagio da Covid. Proseguono i giudici nelle 25 pagine di dispositivo della decisione. Il decreto del guardasigilli ha aperto la porta a una rivalutazione che per il Tribunale di Sorveglianza, oltre a non essere rispettoso del termine, contiene preoccupanti aspetti di limitazione della sfera di competenza dell'autorità giudiziaria e una riduzione della tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'umanità della pena. Così i giudici che appunto sollevano una questione di legittimità costituzionale sul decreto di Bonafede. Vedremo come andrà a finire, certamente è una questione della quale si tornerà a discutere. Un'altra questione di giustizia che trovate un po' su tutti i quotidiani, l'avete sentita anche in GR24, è quella che riguarda la vicenda di Martina Rossi, genovese, aveva 20 anni quando precipitò nel 2011 da una finestra a Palma di Mallorca. Gli inquirenti spagnoli archiviarono la cosa come suicidio. Poi cosa successe? Successe che la famiglia presentò una denuncia dicendo che la ragazza non era persona da togliersi la vita e fu trovata in una condizione particolare, tra l'altro senza indumenti intimi, appunto giù dalla finestra di quest'albergo, era in una stanza con due uomini di Arezzo, e dunque si aprì un'inchiesta e queste due persone furono accusate e poi condannate in primo grado per stupro, o meglio per tentativo di stupro, come morte come conseguenza di altro reato, appunto un tentativo di stupro al quale lei tentando di sfuggire, tentando di andare in un'altra camera, tentando di scavalcare il balcone, appunto, si sarebbe opposta poi, appunto, perdendo la vita. Cosa è successo ieri? Dopo 9 anni di fatto nessun colpevole per la morte della studentessa, perché in secondo grado i due sono stati assolti e uno dei due reati è stato prescritto. È interessante notare come la stampa accolga una riflessione su questo fronte che entra proprio nel dettaglio ed è di un avvocato, ed è un avvocato di grido noto, è Anna Maria Berardini De Pace, una delle più note divorziste italiane, la quale firma un articolo nel quale dice: non sono d'accordo sull'assoluzione dei due ragazzi che erano accusati di tentata violenza, di aver provocato la morte mentre appunto tentavano di stuprarla, di Martina Rossi. Fantastici, sovrumani gli avvocati difensori che hanno ribaltato la sentenza di primo grado, ma signor giudice, anzi signora giudice, consigliera di corte d'appello, ci dice che cosa mai l'abbia potuta convincere dell'innocenza di questi ragazzi? Le sembra mai che una si butti dal balcone della camera di un albergo di Palma di Maiorca la prima sera di vacanza, di ritorno dalla discoteca con un gruppo di ragazzi allegri e divertenti, senza calzoncini lei mai più trovati e con graffi sul collo di uno dei due imputati? Signora consigliera, lei ha certamente letto le conclusioni della procuratrice generale che aveva chiesto la conferma della condanna. E allora che cosa mai l'ha potuta convincere, oltre all'abilità fantascientifica dei legali difensori, che non è stato un tentativo? Forse la mancanza di segni di violenza sessuale, come in un filmato si dicono, rasserenandosi e rassicurandosi i due imputati? Ma la ragazza, secondo me, secondo molti, non è stata violentata, quindi non potevano esserci segni. Si sarebbe trattato di un tentativo di violenza, così Anna Maria Berardini De Pace in un commento sulla stampa. Trovate ovviamente anche tutte le interviste, soprattutto al padre della ragazza che lamenta la mancanza di giustizia. La scuola e i bambini, il tema dei centri estivi, insomma gli elementi sono molti che continuano a circolare sulle pagine dei giornali. Il Messaggero ci porta ancora una volta a pagina 9 sulla questione approvata con il decreto scuola e tutte le perplessità che suscita, ossia il ritorno dei giudizi al posto dei voti alle scuole elementari. È arrivato e i presidi dicono di no, dicono che non va bene, lo lanciano l'allarme perché non è un tema di opportunità o meno di abolire i voti, ma sulla frattura che si potrebbe venire a creare nella valutazione degli apprendimenti, cambiando solo una parte del percorso, scrive Lorena Loiacono a pagina 9 del Messaggero. Insomma, dicono i presidi, la valutazione finale degli apprendimenti non sarà più espressa in decimi, ma consisterà in un giudizio descrittivo riferito ai differenti livelli di apprendimento. E i presidi dicono: sì, però qua come facciamo a fare una sorta di curriculum unico dello studente se alle elementari abbiamo i giudizi e poi alle medie arrivano i voti? Così i presidi che lamentano una preoccupazione su questo fronte. Nel frattempo Avvenire, che decide di aprire sul tema della scuola, apre sulle scuole paritarie. Mai più a scuola, paritarie già chiuse causa pandemia, scrive Paolo Ferrario a pagina 5. Le scuole paritarie non sono un accessorio. L'importanza degli istituti non statali in un sistema educativo integrato è stata sottolineata anche ieri alla Camera da Patrizio Bianchi, coordinatore del comitato di esperti voluto dalla ministra dell'istruzione. E però, racconta già le storie di 4 scuole paritarie destinate a chiudere. I padri somaschi di Casa San Girolamo a Vercurago, in provincia di Lecco, che chiudono un asilo nido. Le suore serve di Maria Addolorata chiudono la scuola dell'infanzia Mater Divine Grazie di Milano. E ancora a Messina il liceo classico e scientifico Don Bosco, la scuola materna paritaria Duca d'Aosta di Sabaudia, tutte destinate a chiudere, appunto, scuole paritarie che non ce la fanno a riaprire. E infine, a proposito di genitori e di centri estivi, avete sentito poco fa il pezzo della nostra collega Rosanna Magnano nel GR, Ebbene, qua la stampa, pagina 6, ci porta sulla stangata, sui centri estivi per i ragazzi, tariffe aumentate fino al 300%, ne parla Flavia Amabile, questo sarà il problema perché va bene riaprire i centri estivi, ma a che costo, a che prezzo per le famiglie? Sarebbe bello poter mandare i figli nei centri estivi dopo 3 mesi chiusi in casa a lottare con computer, telefonini e rapporti ravvicinati solo con qualche fratello e sorella, sarebbe proprio quello di cui bambine e bambini avrebbero bisogno, però i centri privati, racconta Flavia Amabile, stanno facendo una grande fatica a riaprire, anche per quelli comunali non è semplice riprendere l'attività. In provincia di Venezia gli aumenti arrivano fino al 300%, in provincia di Treviso le famiglie si trovano di fronte a costi più che triplicati, i 40-60 euro a settimana si sono trasformati in 150-200 euro, e chi li regge questi costi, ragazzi? Chi li regge 200 euro a settimana? A Modena le rette sono quasi raddoppiate, a Buccinasco in provincia di Milano i prezzi per le famiglie delle fasce di reddito più alte. E ricordate che quando parliamo di fasce di reddito più alte in questo paese, in termini ISEE, in termini di asili nido, scuole, cose di questo genere, ricordate che noi parliamo di redditi alti, in genere queste cose scattano intorno ai 30.000 euro di reddito. Si diceva a Buccinasco i prezzi sono triplicati per 2 settimane di 5 giorni più altri 5 giorni, si è passati da 130 a 400 euro. La pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Come stai, Paolo? Bene? Bene, tu? Bene, tutto a posto. Allora, insomma, tutto a posto. Guarda, l'impressione che ho io è di essere sul Titanic oggi a leggere bene i giornali, perché parlano anche d'altro. Sì, ma non so se hai avuto la stessa impressione. Sì, allora, l'impressione No, cioè, l'impressione è forte. Allora, prima un ascoltatore, abbiamo fatto sentire la voce di un ascoltatore che fa il camionista, che ci dice: non, guardate, il paese è ripartito solo a metà. Io sono in giro, il paese è ripartito solamente a metà, di questi giochi politici non se ne può più sentire. E dunque noi, fedeli a quel che ci dice l'ascoltatore, lo portiamo su 3 dossier concreti, che sono le 3 aperture, non lo dicevo prima, la triade di giornali di oggi, a partire dal Sole 24 Ore, no? Reddito di emergenza è un altro flop. La Repubblica che apre sulla beffa della sanatoria, che non va, non sta andando la sanatoria, e il Messaggero che parla della paralisi sulle crisi industriali. Allora, vediamolo uno a uno. Io partirei appunto dall'articolo di Davide Colombo sul Sole 24 Ore: reddito di emergenza verso il flop. Le domande sono solo 244.000. Da oggi i primi 67.000 pagamenti INPS a 3 settimane dal decreto. Ma l'INPS è la seconda volta che dice delle cose e poi ne accadono altre. Vediamo. Solo un terzo della platea stimata dal governo ha chiesto il sussidio. 39.000 i respinti. La scadenza è il 30 giugno. Poi dicevi giustamente sì. Tu, il Messaggero, che la prende più ampia, paralisi sulle crisi industriali, Ilva, Francia, all'Italia solo rinvii, governo bloccato, quartieri su Mittal, piano inaccettabile. Sì, e fa sapere che entra lo Stato, meglio conferma di fatto, no? Alberto che entra Gentili, lo Stato. Zingaretti è preoccupato per la palude, e noi, aggiungo io, siamo con lui, che frena qualsiasi iniziativa sui 3 gruppi, stiamo parlando di Ilva, Autostrade e all'Italia. L'Italia, la NUCO non è ancora decollata, fermi 3 miliardi, serve il decreto, e poi c'è sempre la bufera su ArcelorMittal, Gualtieri entro lo Stato, però manca ancora il piano B, quindi entra, si dice tanto per dire, ma mancano i piani, si annunciano, e poi lì manca il piano B, l'Italia è ancora bloccata. Ma aggiungiamoci Repubblica, come detto, Karima Amoual, l'articolo di Karima Amoual, la beffa della sanatoria, solo 9.500 dei 220.000 irregolari ne hanno fatto richiesta, 9.500 dei 220.000, pazzesco. Sì. La testimonianza di braccianti e badanti ci costa 500 euro e i datori di lavoro si rifiutano di pagare per noi. La ministra Bellanova, che ha voluto dire, dice: ma no, nessun flop, anche una sola persona sì. strappata al lavoro nero per me sarà un successo. Sì, sì, che di principio è anche no, è anche un discorso che ci può stare, però i numeri previsti erano tutt'altri, insomma. Beh, no? Insomma, poi abbiamo discusso per, ti ricordi anche come abbiamo discusso per una settimana. Io penso che insomma che la preoccupazione è grande, qui non sta ripartendo niente, cioè il paese riparte anche se i contagi insomma, non sono ancora a quello zero o sì. nell'area dello zero, rassicurante, ogni giorno c'è un indice o i morti o i contagi che recupero, però insomma la situazione sotto il profilo sanitario in questo momento non è allarmante. Però, io non so se tu hai visto sulla stampa. L'apertura, no? Anthony Fauci, il consigliere di Trump. Anthony Fauci dice questo: in autunno una nuova andata, attenti, è il consigliere sanitario di Trump. Il virus è naturale, il mondo ha bisogno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Europa si faccia il suo vaccino. A dicembre e a gennaio i cinesi non sono stati trasparenti nel darci le informazioni, questo lo sappiamo, anzi sì. oggi c'è un rapporto di uno studio di Harvard non ancora certificato che rivela come probabilmente ha studiato dei movimenti delle macchine intorno agli ospedali già a settembre lì in Cina, Wuhan era successo qualcosa, ma lasciamo perdere il rapporto di Harvard. Comunque, anzi, per quanto interessante quel rapporto di Harvard, però appunto fondamentale sì. anche perché si vede questi movimenti delle macchine, cioè se in agosto è nato qualcosa e poi a settembre si vedono decuplicate le macchine che occupano i parcheggi degli ospedali e poi soprattutto hanno fatto anche una ricerca su internet e quanti andavano a guardare i sintomi del Covid e anche lì sono esplosi dalla Cina fra agosto e settembre. Comunque dicevo a Fauci, sì. però voi mi direte, tu mi dirai perché sei scettico, un cinico, sì. Ma basta, i virologi ancora, un allarme, visto che era tutto... No. Anzi. Perché guarda. Voi avete preso sul serio Fauci quando criticava Trump e avete fatto bene. E non dovete essere ideologici. Se Fauci noi spezia, mi stai dando del voi. Voi avete criticato Fauci, e allora se Fauci andava bene quando metteva in allarme Trump e sottolinea ancora aveva ragione, attenzione, lui non lo dà come una certezza, ma dice guardate che la cosa non è ancora finita, è molto probabile che si riaffacci. Quello che state facendo in Italia è giusto, vi incoraggio a usare prudenza, servono i test, le future infezioni sono inevitabili, dice Fauci, ecco bisogna avere personale a test per isolare i casi. Questo è Anthony Fauci. Invece sul fronte vostro degli ottimisti, sì. la seconda e la terza pagina del Corriere della Sera, anche la prima, che invece festeggiano, non sono cinici come te, eh? Sì. La seconda pagina dice la Grecia, sì, agli italiani, ecco dove si può viaggiare, poi si festeggia perché Depardieu e Hélène Mirren hanno annunciato che vengono in vacanza in Puglia e a pagina 3, la più importante del giornale, il primo sfoglio, si torna a ballare, ma solo all'aperto. Che bello, vedi. Allora, però ci fa sapere il messaggero dall'altra parte che non si possono fare né lenti né il liscio è vietato. Certo, perché la norma dice questo, distanza di 2 metri, così si danza in pista, in discoteca bisognerà essere distanziati di 1 metro che diventano 2 nella pista da ballo. Divertentissimo, ballare a distanza di 2 metri. E io, visto che tu fai tanto il cinicone, ti manderò quest'estate, quando smetterai la radio, a fare da guardiano sulla pista da ballo. A controllare le distanze. No, perché non puoi fare tutto l'inverno, la primavera, l'inizio dell'estate e poi non prenderti le tue risposte. Hai ragione. Allora, qualche ascoltatore ci chiede, ma Colao? Adesso arriviamo, traffico. Mattino. Allora, penso, caro Paolo, che se vogliamo rimanere sul dare una misura, no, del livello di tensione politica che si respira in queste ore tra la vicenda Colao e gli stati generali che si aprono, beh, forse possiamo anche rimanere sulla stampa e prendere questo titolo che parla di un assedio a Conte e addirittura di un'idea di sostituirlo con l'attuale ministro della difesa Guerini. Questo un po' a dar la misura, poi per carità sono i retroscena, quindi sappiamo che valgono per quel che valgono, però no, da un po' la misura di quel che succede però a Roma. Questa cosa di Guerini circola già da qualche giorno. Sabato scorso mi sembra il Foglio ha pubblicato un grande ritratto di Guerini dicendo che è in pista, è un ministro del PD poco conosciuto e quindi che sta nella penombra, non è uno di quelli che si danno molto da fare. Ed è possibile perché se no l'alternativa ove mai saltasse, ma Conte, se no sono le elezioni, quindi è possibile che si preparino a una soluzione di ricambio. Comunque, procediamo con ordine. Sì. Dice il giornale, Premier accerchiato, psicodramma Conte, un titolo a tutta pagina, come quelli che si fanno per l'attentato alle Torri Gemelle, un sì. Titolo enorme. Piano Colao, bomba sul governo, Giuseppi, in solito modo scherzoso, cestina le proposte del manager e lo esclude da tutti gli stati generali. Sì. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista di Maria Teresa Medi a Graziano Del Rio, noto esponente del PD, ex ministro e capogruppo del PD alla Camera, che è durissimo con Colao, in modo per essere Del Rio, insomma, dice... Non gli avrei chiesto di affidare, di affrontare l'universo mondo. Bravo Del Rio, però perché non l'ha detto 2 mesi fa? Cioè, quando è stata istituita la commissione si doveva alzare Del Rio, che è un personaggio importante, e dire oh ragazzi, diamogli dei compiti specifici. Precisi e specifici, certo. Mariana Mazzuccato, che era stata inserita una consigliera molto importante, un economista dell'University College di Londra, che è molto molto di sinistra, vuole lo stato dell'economia dappertutto, non ha firmato, era stata infilata nella commissione, non ha firmato la cosa, tra l'altro dando delle motivazioni quasi offensive, diceva ma avevo d'altro da fare con il presidente Conte, ho partecipato al lavoro del presidente Conte, quindi non me la sono sentita di firmare. Devo dire che nei confronti di Colao è stata messa in atto una campagna di maleducazione che raramente ho visto. Chi se la ride è Carlo Cottarelli, sì, che sì, ti ricordi, sì. A lui fu affidato da un precedente governo il compito di sovrintendere i tagli e lo trattarono anche lui come uno straccio alla fine. Sì. E, insomma, sono circolati molto i paragoni tra la spending review di Cottarelli finita, no, nel cassetto, e esatto, il piano Colao che potrebbe fare la secondo stessa fine. Secondo me con Cottarelli, se io mi ricordo, furono meno offensivi, però il consiglio che do a te, che hai questa ambizione, non andare a fare il tecnico del governo, no. Perché poi tutti entrano in gran pompa con... salutati, sarà il prossimo presidente del consiglio e poi piango, quindi sì. Guarda, non dire che non ti avevo avvertito. Se mi chiamano in una task force rifiuto. L'unica task force della quale voglio far parte è questa qua, quella di 24 mattino con Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e con te naturalmente, perché Paolo. Perché loro sono bravissimi per questo. E che altro dire sulla cosa? Niente, non si può dire aggiungere niente, se non che il piano è piaciuto più alla destra che alla sinistra. Anche questo scandalizza tutti i giornali filo governativi. Dice, ma come, questo l'abbiamo chiamato noi. Però adesso si entra in un'altra avventura. Guarda, Colao è appena uscito ed ecco che andiamo nei 10 giorni di stati generali. Sì. Perché gli stati generali che dovevano durare giovedì, venerdì e sabato, poi venerdì, sabato e domenica. Adesso si è deciso che per fare arrivare anche forse la Lagarde, Ursula von der Leyen, esponente Sassoli, del Fondo Monetario, anche, si annuncia trionfante il Fatto Quotidiano che viene anche Sassoli forse, sì. Però dice forse Lagarde, non è sicuro, però ci vuole 10 giorni, quindi 10 giorni di stati generali, non ti dico i giornali, tra le righe, si capisce che se la ridono, perché ricordiamo sempre quel corsivo di Orioli di 10 giorni fa. In Germania, in sì. 21 ore, dicono 21 ore, si sono accapigliati, hanno fatto un piano specifico, hanno messo i contenuti di questi piani in 15 cartelle, te lo ricordi? Sì, come no, certamente, certamente. In 15 cartelle, il giorno successivo sono passati a delle cose esecutive, pratiche. Sì. Qui intanto si perdono altri 10 giorni per una passerella. Sì. In una sorta anche di punto, sì, prego Paolo. Sì, ci andrà anche Renzo Piano, ci andranno anche delle star del senatore a vita. Un po' tutti, una sorta di punto di mediazione tra Conte, che lo voleva fare in 3 giorni, e il PD invece, che diceva anche devono durare 2-3 settimane. Una grande esperta di povertà, invitata anche Fuxas, un altro grande architetto, ma insomma una cosa veramente meravigliosa. Se fossimo in tempi normali, sì, una villa, sì, è stato paragonato a Luigi XVI, Conte, perché gli stati generali, l'ultimo che li convocò fu Luigi XVI a fine Settecento, e poi però fu la Rivoluzione Francese e quel marasma, e tutte le teste di coloro che avevano partecipato, erano stati convocati agli stati generali, o avevano convocato, caddero, furono tutte tagliate. Però fisicamente in quel caso, ovviamente, tra l'altro. Non voglio fare questa previsione. Certamente. Ti voglio portare in chiusura, Paolo, perché abbiamo veramente un minuto, su questo titolo di Libero, farà discutere sicuramente. Libero che ha imbracciato una battaglia, a favore della Lombardia e contro questo cosiddetto sentimento antilombardo. All'estate 59 napoletani. Il titolo è questo, c'è stata una retata dove hanno messo sotto torchio Gigino Purpetta, un famoso parlamentare detto Gigino, e hanno arrestato i suoi 3 fratelli. Libero lo presenta come arrestati 59 napoletani, e questo farà sorridere o indignare ovviamente. Retata anticamorra, insomma, il cancro del paese è la mafia, ma lo sport nazionale, dice questo, attaccare Fontana. Ma tu sul premio Striga non vuoi dire assolutamente nulla? E la cinquina che diventa una sestina, dici? Ecco, bravo, cioè, velocemente hanno deciso di ripescare un libro di un editore minore e allargare così a sorpresa la cinquina, una regola che viveva dalla fine degli anni 40, istituito dal primo Striga, e metterne uno, un ragazzo scrittore, ben inteso, di un editore piccolo. E io, leggendo stamattina il giornale, ho pensato: non ci si può più fidare neanche del premio Striga, se la cinquina diventa sestina, per osservare le regole. E quindi ho deciso, vado agli stati generali. E basta. È strano che non ci sia Jonathan Paolo Bassi Mieli. Si chiama. Sì, strano che non ci sia Paolo sì. Mieli agli stati in generali. In fondo il sarcasmo che tu senti è anche per il fatto che almeno sì. mi hanno consultato. Non ti hanno convocato. Guardare la casella della posta. Sì, ma magari è arrivata. Magari Palazzo Chigi convoca Paolo Mieli agli stati generali. Allora, Paolo, ci risentiamo comunque venerdì. Poi, se sei agli stati generali, ci dai qualche insider. Sono nel pomeriggio, non ti preoccupare. Quindi posso fare la rassegna la mattina. GR24, ci risentiamo tra poco.